Siete all'ascolto di Easy Rider. Darkness, darkness, be my pillow. Take my hand and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your deep darkness. Darkness, hide my yearning for the things that cannot be. Beh, non potevamo che passare una canzone come questa, visto il titolo, Darkness, Darkness, quindi oscurità, oscurità, vista la fascia oraria nella quale Easy Rider si sta collocando da questa sera, ufficialmente fino alla fine del mese di maggio, condotta ovviamente come sempre dalla voce di Mox. Erano gli Young Bloods alla fine degli anni 60, proprio nel 1969 usciva il loro album Elephant Mountain, da cui è stato tratto questo all'epoca fortunato singolo, ossia Darkness, Darkness. Ovviamente siamo negli Stati Uniti, un ritorno alle sonorità vintage degli Stati Uniti, sulle quali ci soffermiamo un attimo anche con il prossimo pezzo, che ci consentirà di parlare proprio di un argomento, di scomodare anche la parola plagio, e ve ne accorgerete subito. del motivo per cui uso questo termine. Allora, i saluti ancora agli amici che scrivono al 335 100 7777, non ho proprio intenzione di trascurarvi. Randagio dice: sei un grande, puoi dire a Marghe che la amo da morire. Volentieri, Marghe. Randagio dice che ti ama da morire. Frinz 78 mi dice: adesso le ho provate quasi tutte, come posso riuscire a recuperare gli Inside Out? Ma innanzitutto ascoltando Easy Rider, perché o stasera o al più tardi domani, se ci saranno problemi di tempo, te li faccio riascoltare io. E poi Inside Out è un disco che è stato pubblicato regolarmente ed è probabilmente ancora nel catalogo dell'etichetta Revelation, ricordati l'etichetta. Inside Out è l'unico disco che hanno fatto che contiene in formato CD 6 brani, quindi è un mini. In formato vinile invece era un 7 pollici, un 45 giri con 4 brani. Ricordati che il titolo è No Spiritual Surrender, nessuna resa spirituale. Enrico da Livorno dice: come si gode il tuo programma di sera sdraiati sul divano? Grazie per i Black Widow e ovviamente i Journey. Jacopo dice: welcome back on night, grazie, bentornato anche a te. Il Fanello dice: come va la sera? Solitamente mi fai compagnia al primo pomeriggio, ma devo dire che anche la sera il programma rende. Ma guarda, è parere unanime quello che, insomma, la fascia serale giovi molto a questo programma. Stefano 58 dice: bello tornare all'antico nella fascia serale, grazie per Rollins, selvaggio come sempre. Fregenhaus dice: qua ti sei superato. Non so a che cosa si riferisce, forse a Darkness degli Young Bloods. Immenso Henry Rollins, da paura, questo è il parere dell'amico Mauri. E poi tutta blu e boots fino alle 6, Working Class Heroes. Cosa puoi dedicarci? L'omonima canzone Working Class Hero di John Lennon. Perché no? Magari una di queste sere la riprendiamo in mano. Allora, lasciamo da parte gli Young Bloods, e vi avevo promesso di musica vintage americana. Blues Magoos è il nome di questo gruppo. Tra l'altro, segnalazione arrivata tardi, perché era una cosa che ovviamente avevamo fatto ascoltare più volte di Easy Rider da un amico genovese che non so se ha l'ascolto in questo momento. Si chiama Guglielmo e diceva: ma sai che Black Knight dei Deep Purple ha il riff uguale a We Ain't Got Nothing Yet dei Blues Magoos? Beh, lo so, sì, visto che lo abbiamo trasmesso più volte, e allora sono qui per farvela riascoltare. Dal Bronx, e quindi dalla città di New York, arrivavano i Blues Magoos. Questo era il loro primo album, siamo addirittura nel 66, anche se poi il disco credo che veda la luce nel 67, e si intitolava Psychedelic Lollipop. Questi sono i Blues Magoos. We Ain't Got Nothing Yet, il titolo della canzone del 66 dei Blues Magoos dal Bronx, quartiere newyorkese, veri teppisti che si cimentavano un po' con i loro strumenti in un nuovo suono. Ed è ovvio che il riff, che a loro volta era stato copiato da un brano di qualche anno prima, è il medesimo, insomma, richiama molto Black Knight dei Deep Purple, uscita per l'appunto nel 1970. E allora io, visto che ho scomodato un nome, cioè quello dei Deep Purple, quasi quasi torno volentieri a farvi sognare, a farvi viaggiare con un altro album dal vivo. Dopo Henry Rollins e la sua Out There da Turn It On, datata 1990, andiamo nella Mitteleuropa del 1975. Con Mitteleuropa intendo Germania, Francia, Austria, e proprio in quel territorio i Deep Purple registrano uno dei loro più prestigiosi album dal vivo, ossia Made in Europe. Quindi non ascolteremo banalmente Black Knight, visto il riferimento con la canzone poc'anzi appunto risentita dei Blues Magoos, ma ascolteremo un capolavoro della storia della musica, ossia Mistreated, a firma Ritchie Blackmore, e colta dal vivo nel 1975. Era uno degli ultimi tour che vedeva protagonista la chitarra nei Deep Purple Ritchie Blackmore, poi lascerà lo spazio per una breve stagione a Tommy Bolin. Comunque, Made in Europe viene pubblicato nel 1976, la copertina è d'argento, per fare la differenza con Made in Japan, la cui copertina è d'oro ed è del 72, e questi metalli preziosi ben simboleggiano la fortuna, ma anche il merito, il valore che questi dischi live della storia del rock hanno avuto. Deep Purple, Mistreated, con un intro chitarristico ovviamente del buon Ritchie Blackmore. to come on home. Wants you to come on home. Baby, baby, baby, baby. I want you to rock me, baby. Rock me all night long. Oh, now listen to this. I want you to rock me, baby. Rock me all night long. Like I know I need it. Like I know I need your love. Hear me call your name. Hear me call your name. La voce di David Coverdale non è cosa da poco, ovviamente, nel 1975 lo era men che meno, insomma, un'interpretazione sicuramente da brivido, e quando si parla ovviamente di grande musica significa che in qualche modo, almeno fino al 31 maggio, si parla di Rock FM, quindi si parla di noi. Tra poco Garageland è alle porte, un'ora in compagnia del Matthews e di Maurizio Faluisi, nella quale, mi anticipano, si parlerà dei Ramones. Senza però ascoltare Ramones, quindi una puntata sicuramente di approfondimento, di sicuro, di certo interesse. Ma io, prima di lasciarvi nelle loro mani, io sparo quella che forse sarà l'ultima cartuccia di Easy Rider di questa sera, un brano che ci fa tornare a parlare di Krishna Kaur, un argomento che ogni tanto io risollevo, e dobbiamo questa definizione quantomeno a un gruppo, sempre di New York peraltro, a proposito di Ramones, a un gruppo che per primo ha fuso questi due linguaggi apparentemente differenti, ossia la filosofia Hare Krishna e il suono hardcore, e quindi giornalisticamente è nata la definizione di Krishna Kaur. Ovviamente abbiamo ascoltato i Deep Purple, che è grande musica rock, ma nulla a che vedere né con l'hardcore né con filosofie religiose. Prima di ascoltare l'ultimo pezzo, io voglio ringraziare e salutare gli amici che mi hanno scritto ancora a moxetradiorockfm.com, a partire dal Bonnie, dice: eccoci qui anche di sera. Poi saluto il Pistola, che è in ascolto e mi dice: grande Claudia, stasera ti sento un po' giù, sia nella voce che nell'intensità della programmazione dei brani. tiraci su con un gran pezzo, magari dei Monster Magnet. Un abbraccio, come direbbe Mox, circolare. Ovviamente io il mio abbraccio circolare non ve lo farò mancare tra poco. Roby da Caravaggio infatti me lo manda anche lui, poi Marco e Riccardo da Lucca, di età 36-34, mi dicono che mancherò tanto, ovviamente come tutti noi mancherà tutta questa situazione. Poi mi chiedono un consiglio sui Judas Priest. Ci sono dei dischi di Judas Priest a mio avviso sicuramente da possedere, quantomeno tra il 76 e l'80, insomma c'è un po' il meglio della loro produzione primordiale, poi ci sono degli ottimi album nella fascia decade 80 e 90 di metal, e dal vivo sono ancora una valida band, quindi secondo me si possono sicuramente vedere. Allora vi dicevo, il prossimo pezzo si intitola Crush the Demoniac, quindi infrangi con tutta la tua forza i demoni, tutto ciò che demonizza un po' la nostra esistenza. Non entrerò nel merito del testo, ma vi garantisco che ne dice di cotte e di crude su tutte le cose che minano il nostro cammino spirituale. Il suono però è decisamente heavy. Questi erano i Cro-Mags nel 1989 dall'album Best Wishes. Thank you. Max fino all'ultima nota, ovviamente Crash the Demoniac, che sancisce in tempo la chiusura di queste due ore in mia compagnia. Un felice ritorno da parte mia, visto l'esito di quelli che sono stati l'esito numerico dei vostri messaggi. Allora, io ho già qui alle porte il Matthews e l'amico Maurizio Faulisi. Vi ricordo, poi lo farà anche lui, che domani Maurizio insieme a Max De Rio e ad Ariele sicuramente saranno dalle 14 sulle frequenze di Radio Popolare, non per fare un loro programma ma per intervenire in un programma di Radio Popolare dalle 14 alle 14.30, quindi se avrete voglia di ascoltare anche la nostra voce, visto che per fortuna ci sono altre emittenti illuminate che ogni tanto ci danno spazio. Gli ultimi saluti, Enrico da Livorno, che specifica che Blues Magus è del 66 come la sua data di nascita, complimenti Enrico. Saluto e ringrazio e mando un bacio a Marzia, che dice: bellissimo pezzo riferito ai Deep Purple, è bellissimo anche tu, grazie, spero di meritarmi questo. Luisa da Milano dice: Made in Europe non è mai stato ristampato su CD in edizione deluxe, mi sembra di no, e due ore alla sera passano più velocemente, probabilmente è vero. Arianna 16, mai ascoltati i Cro-Mags, stasera ti sei superato, chi mi passerà queste canzoni? Non lo so, qualche cosa succederà. Un ultimo saluto anche all'amico Fregenhaus, vi lascio nelle mani di GarageLand, un programma ad alto potenziale di rock and roll. Da parte mia abbraccio circolare, ma soprattutto appuntamento a domani con Easy Rider, puntuali alle 21. Ciao a tutti da Mox. Che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da 2 soldi. Voglio dire, proprio di quelli da 2 soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma guarda, per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.